Storiacce d'autore, a cura di Raffaella Calandra, in collaborazione con Milano Nera. Uno scrittore, un fatto vero e un testo composto proprio per noi. Ogni domenica in queste storiacce la cronaca la ascolterete dalla voce e dalla penna di un autore, sempre a partire da un fatto vero. Roma, febbraio 2010. Sempre più donne vittime di stalking. 5.200 denunce e 1.000 arresti in un anno. Mario Montanari ha 33 anni. Fa l'operaio in una fabbrica che produce i cassonetti per la raccolta differenziata ed è innamorato di Valentina, che di anni ne ha 24, studia giurisprudenza all'università, vorrebbe fare un avvocato una volta laureata. Anzi, per la precisione, vorrebbe fare il concorso ed entrare in procura per fare la PM. Valentina ha un padre, una madre, un fratello, Saverio, che di anni ne ha 39 ed ha una vita che entra ed esce dalla galera. Ultra della squadra della città, accuse per percosse, poi spaccio e rapina aggravata. Tutti loro abitano alla Garbatella. E tutti loro in qualche modo sono legati. Saverio ha sempre amato Valentina, la sua sorellina, e forse è proprio per lui che lei, con una sorta di ribaltamento, ha deciso di diventare un pubblico ministero, un inquirente, un accusatore. Saverio approva. Meglio che io fai te sto mestiere, l'ha sempre detto, te almeno c'hai il cuore buono. E infatti Valentina il cuore buono ce l'ha per davvero. Ma il cuore di Valentina non batte più per Mario. Si è stancata. Valentina fa la cubista in discoteca, papà in pensione, mamma fa la casalinga e i pochi soldi che hanno li spendono per Saverio i suoi processi. Se lei vuole mantenersi agli studi deve lavorare e infatti lavora, cubista. È bella, gambe lunghe, bel culo, belle tette, bel faccino. Sul cubo fa una gran figura e guadagna quello che le serve. All'inizio Mario Montanari è ammirato, poi però Mario Montanari si ingelosisce. Inizia a fare scenate, a dare della troia, insicuro, piange, urla, si incupisce, pensa, rumina e si incattivisce. E Valentina lo lascia, 5 mesi fa. Ma non per come è diventato lui, o almeno non è questa la ragione principale. Più banalmente, si è stancata, annoiata. Lui non le interessa più, è giovane, ha dei sogni, delle aspettative e vuole altro. Mario Montanari sembra accettare la decisione di lei, ha ragione, dice «Ho sbagliato, però possiamo rimanere amici». Invece, dopo pochi giorni, inizia la persecuzione. Decine di sms al giorno, centinaia di chiamate al mese. Valentina ne parla ai suoi, suo padre ne parla al maresciallo dei carabinieri che già conosce per via di Saverio. Il maresciallo però, proprio a causa di Saverio, minimizza e dice al padre «Voi avete altri problemi a cui pensare, dottore, occupatevi di quelli. Queste qua sono faccende tra ragazzi». Mario Montanari viene licenziato dalla fabbrica ma non smette con gli sms e le chiamate. E sta sempre appostato sotto casa di Valentina o fuori dall'università o fuori dal locale dove lei balla. 3 sere fa, Mario Montanari è all'uscita di una discoteca dove Valentina balla sui cubi. Quando lei esce, lui la prega. 2 chiacchiere, dai, solo 2 chiacchiere. E lei accetta. Torna a casa con 2 costole rotte, 2 dita rotte, un occhio nero, uno zigomo rotto e stuprata. Suo padre afferra un coltello da cucina e fa per uscire, ma Saverio, agli arresti domiciliari, lo ferma. «Apà, ma che stai a fa? Io lo ammazzo quello». «No, tu non ammazzi nessuno. Quello la passa liscia. Possiamo andare ai carabinieri. Quelli non ci ascoltano, Savè. Io già gliel'avevo detto». Suo padre scoppia a piangere. «Io già gliel'avevo detto, Savè», ripete. Saverio abbraccia suo padre senza dire nulla. Poi va nella stanza di Valentina e abbraccia pure lei che piange. Anche a Saverio scappano lacrime. «Valentina, te voglio bene, tu lo sai, no?» «Sì, lo so, Savè, ma che c'entra?» «Niente c'entra. Ma davvero ti ho sempre voluto un bene che mi si spacca il cuore». Valentina fissa suo fratello che a sua volta la guarda con gli occhi rossi umidi. «Savè, che c'è? Che vuoi fa?» «Niente voglio fare, niente, non ti preoccupare, mo ci penso io. Savè, shh!» Saverio posa l'indice sulle labbra di sua sorella, poi le toglie, le accarezza dolcemente una guancia, poi esce dalla sua stanza. Mario Montanari sente squillare il campanello, sente sirene della polizia in avvicinamento. Di fronte si trova Saverio che lo spinge dentro casa con in mano lo stesso coltello che aveva il padre. «Mo noi due dobbiamo parlare un po'». Andrea Cotti, in libreria con Stupido, Rizzoli, 201 pagine. 13,50 euro.